hanno invaso ormai tutta la città, hanno distrutto già radio, dischi e la TV, ci hanno detto di non suonare più. Per resistere, rock'n'rollin', per difenderci, rock'n'rollin', per non cedere mai. Oh, rock'n'rollin', sopravvivere, rock'n'rollin', con la musica, rock'n'rollin', al silenzio che c'è. Sepolto qui, sotto la metropoli, rinchiusi in un metro che non parte mai. Non ci sono show, niente più spettacoli, non si balla più, si canta più. E allora rock and rollin', per resistere, rock and rollin', per difenderci, rock and rollin', per non cedere mai. Rock and rollin', sopravvivere, rock and rollin', con la musica, rock and rollin', al silenzio che c'è. Svegliati città, da una notte tragica, quante stelle vuoi per rialzarti su? Non c'è libertà musica, non c'è rabbia che non esploderà. E allora rock and rollin', per resistere,